adesso tutti concentrati, mettetevi comodi, è cominciato, l'attesa è finita. Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. 800 24 00 24, Giorgio De Luca autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, voi a casa a prenotarvi, 800 24 00 24, perché oggi parliamo della restaurazione di questo giovedì di Coppa. Sembra che non sia successo nulla, Mihajlovic e Pioli che restano al loro posto, Garcia anche, perché per il momento non è stato esonerato malgrado tutto. Poi si vedrà, però prima di vedere la Roma in ritiro, ad esempio, sono passati 2 giorni e mezzo dalla figuraccia contro lo Spezia. Da ieri sera la Roma in ritiro, ma sono passati 2 giorni e mezzo. Basta poco, insomma, per cambiare le prospettive. Ciao Pier. Pierluigi? Eccoci. Avevo messo il muto per non far sentire i rumori di fondo. Bene, come va? Sì, ho sentito tutto. Sì, come cambiano le prospettive? Giovedì, fino a giovedì pomeriggio sembra che debba cambiare il mondo, poi in parte cambia, avremo modo di parlarne, c'è Mourinho, c'è Ancelotti, ci sono mille cose, però poi resta tutto lì, Pioli, Mihajlovic, Garcia. Beh sì, però allora, Pioli e Mihajlovic hanno vinto, quindi nel caso di Mihajlovic tra l'altro si creano delle condizioni quasi eccezionali per la Coppa Italia, il fatto che poi vedere... Ovviamente rispetto per tutti, figuriamoci per squadre che stanno facendo cose leggendarie in Coppa Italia come Carpi, Spezia e Alessandria. Però è ovvio che Milan in questo momento ha una strada, per cui se farà il minimo indispensabile, proprio il compitino, va in finale di Coppa Italia. E la finale di Coppa Italia è a maggio, mancano quindi 5 mesi, tra 5 mesi può essere un'altra storia, partita secca, potrebbe togliersi una soddisfazione alla fine anche non da poco, perché comunque non è che sono tutte, non è che ci sono 50 competizioni all'anno, perché se riesce a vincerne una, c'è questo comunque... paradosso che il Milan può alla fine portare a casa qualcosa, però va sempre contestualizzato. Ieri il Milan ha vinto, ha fatto fatica per almeno un tempo, oggi in tanti lo scrivono, contro una squadra, la Sampdoria, che ha fuori 3-4 titolari, poi alla fine Mihajlovic, ve lo faccio sentire. Mi dispiace per qualcuno di voi che mi dovrà sopportare almeno per altri 3 giorni, poi si vede avanti, però io non faccio caso a queste cose qua, io ho fiducia nel mio lavoro e non mi faccio la testa di queste cose, come detto io sono sempre stato sereno e non ho problemi. Ecco qui, insomma io non so se basta, il Milan visto ieri sera per dire che Mihajlovic si è messo al riparo, Pier. No, non basta perché poi la vita va avanti e a cominciare da domenica ore 18 a Frosinone gli esami non finiscono mai, no? E quindi è ovvio che sia complicatissima la situazione di Mihajlovic e il bilancio fino a questo assolutamente non all'altezza. Aspetta che recuperiamo anche all'altezza il collegamento telefonico con Pierluigi Pardo. Ancora voci dalle ultime ore, voci e rumori. Mi fate sentire la festa di Natale della Roma ieri sera. Insomma, questa è la festa di Natale della Roma che da ieri sera è in ritiro a Trigoria in attesa della partita di domenica pomeriggio contro il Genoa. L'ultima di Garcia? Bah, forse sì, forse no, vedremo. Vi raccontiamo qualcosa dopo le 15. E poi l'altro allenatore che camminava sul filo, Pioli. Non può essere nella nostra situazione solamente una partita a determinare una svolta o a determinare una crescita importante. Per oggi quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, abbiamo giocato bene, c'è un rammarico di non aver concretizzato tutto quello che abbiamo creato, però soprattutto in un momento così andare sotto e reagire è stato molto importante, quindi credo che sia stata una buona prestazione, credo che ci possa aiutare per il nostro futuro, che però ci vede subito impegnati in campionato, che è lì che dobbiamo recuperare, è lì che dobbiamo fare molto meglio. E anche Pioli resta. Mi piacerebbe sapere da voi chi rischia di più tra le grandi nell'ultimo fine settimana del 2015, perché il destino di Pioli è appeso alla partita San Siro contro l'Inter capolista, e anche questo è un paradosso. Poi c'è il Napoli che va a Bergamo con l'Atalanta, la Juve che gioca fuori casa con il Carpi, c'è Roma-Genoa. c'è Fiorentina a Chievo, c'è Frosinone Milan, chi rischia di più, chi rischia di andare a mangiare il panettone con qualche brutta sorpresa. 349-238-6666 via sms e via whatsapp. C'è chi scrive: il Milan ha vinto contro una squadra che oggi è in grado di giocare al massimo 10 minuti con la filosofia di Montella. Poi un altro scriveva via tutti tranne Bonaventura e Niang, perché c'è che il Milan ieri ha vinto anche con due prodotti del mercato di Galliani, il mercato tanto criticato di Galliani. Ieri in qualche modo hanno salvato la panchina di Mihajlovic. Abbiamo recuperato Pier, ci sei? Sì, guarda, la critica a Galliani è una critica secondo me abbastanza ideologica, nel senso che Galliani mi sembra una di quelle figure dove ormai o ci sono quelli che stanno con lui e quelli che sono contro di lui, come veramente come se fossimo di fronte a un totem, a un leader quasi politico, a una persona che viene giudicata più che altro da simpatia o antipatia. È chiaro che degli errori li ha fatti in questi ultimi anni. Può essere anche vero quello che ha detto Paolo Maldini, cioè che negli ultimi anni c'è stato un gap, una lacuna di competenze tecniche del Milan. Galliani è certamente un grande uomo d'azienda, un grande amministratore, magari in certi momenti avrebbe bisogno di una guida tecnica, che può essere stata Braida magari, che oggi non c'è più. Quindi da questo punto di vista questa critica di Maldini io l'ho trovata come molto costruttiva, al di là dei loro rapporti più o meno tesi, però insomma, appunto, poi io invece ho un approccio laico con la questione. Penso che il Milan negli ultimi anni abbia sbagliato tante cose, penso però appunto che neanche Bonaventura sono i due colpi di Galliani, e che quest'anno abbia speso tanto. Bacca è un giocatore per il Bacca quale il Milan quest'anno è un altro prodotto del mercato, Per ora sta andando meglio Bacca di Dzeko, tanto per fare un nome, no? Sì, ma guarda, il tema lo sviluppiamo poi con Luca Serafini, uno che con il Milan e con Galliani è tutt'altro che morbido e tenero. Però ci sono alcuni paradossi nel Milan, mi piace anche sapere cosa ne pensano gli amici da casa. C'è un amico che suggerisce il nome di un possibile prossimo allenatore per la Roma. Aspetta, te lo faccio sentire. Adesso è libero, è libero. Are two goals very difficult to accept, a big frustration to accept, because it's like feel that my work was. Oh, questo è Mourinho che dà dei traditori ai giocatori del Chelsea lunedì sera. È durato altre 72 ore, Pier. Poi sì, beh, era nell'aria, c'è la piccola situazione perfida di Ranieri, che pure è un uomo insomma placido, abbastanza tranquillo, non particolarmente rigoroso, di avere in qualche modo però provocato. Però un pochino starà godendo. Soprattutto deve godere per il suo Leicester, su questo non ci sono dubbi. Sì, no, ma per quell'altra cosa dico. Per quell'altra cosa, perché insomma dopo essersi sentito dire che era un settantenne che sapeva dire soltanto good morning e good afternoon, mi sembra che stia facendo cose. Ha detto anche bye bye, gli ha detto bye bye José. Assolutamente. 800-2400. Aspetta Pier, siamo in ritardo sul traffico, tanto poi ripartiamo proprio da qui. 349-238-6666 sms whatsapp. Traffico. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Convocati. Sì. Ma io non sono Pirla. Io conosco Monaco di Tibete, Monaco Monte Carlo, Bayern Monaco, Grand Prix di Monaco. Se qualcuno Monaco vuole essere conosciuto perché parla di me, mi deve pagare. Negli ultimi due giorni non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo avere con me, e che finirà la stagione con zero titoli. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli. Conseguir la risposta, che è perché? Perché? Perché Ovrebo? Perché Buzaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? Nothing to say. Nothing to say about the game at nothing, all? Nothing, I have nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch? Nothing to say, I have nothing to say. The Costa clash? I have nothing to say, I'm so sorry, I have nothing to say. Do you not think it's time to have a chat to the fans just to give them some message, give them indication of your the thinking? The fans are not stupid. Allora, leggo qualche messaggio che è arrivato, è già arrivato. Bella la vostra ironia su Mourinho, è in fondo uno che ha vinto da solo il doppio rispetto a tutti gli allenatori del nostro magnifico campionato. Paolo, poi meglio un solo Ranieri che 100 Mourinho. Aspetta, e non avevo nemmeno lanciato il tema, ma per dirti, il grande ex Special One, nessuna prostituzione intellettuale, semplicemente zero titoli, come godo. Oh, Pier, abbiamo convocato anche un nostro amico per aiutarci a fare la lista di quelli che stanno godendo, ma godendo tanto in queste ore. Paolo Condò, ciao Paolo. Ciao Giovanni, ciao Pier. Ciao Paolo. Perché noi abbiamo provato a metterli, avete sentito Mourinho, quelli che aveva citato in questa carrellata stanno godendo di sicuro. E gli altri? Cioè, quanti sono quelli che stanno godendo oggi, Paolo? Ma molti, sicuramente molti, ma d'altra parte è il destino dei grandi, hanno tantissima gente che li applaude nel momento del trionfo, magari anche più del dovuto, e hanno tantissima gente che gode in maniera riflessa della loro sconfitta quando è il momento per loro di finire nella polvere. Lo abbiamo visto anche in politica, lo abbiamo visto in tutte le manifestazioni della scienza umana, lo vediamo anche nel calcio, quando naturalmente stiamo parlando di un personaggio profondamente divisivo, perché è abbastanza evidente che Mourinho è il classico, come certi giocatori, il classico allenatore che se lavora per te tu sei entusiasta di lui, ma altrimenti è facile odiarlo. Certo. Anche se c'è un tifoso del Milan, adesso ho perso il messaggio su WhatsApp che scrive: chi se ne fotte se interista, io lo prenderei domani mattina se fossi in Galliani. Ecco, certo. Io credo, ma certamente tu dici o Mihajlovic o questa situazione, ma pure no? Roma, tutti quelli che sono Roma, bravo. Adesso, il punto, l'aggettivo secondo me illuminante del professor Condò è divisivo. Cioè, Mourinho è chiaramente uno che divide, ed è uno che è arrivato con una personalità talmente forte, un atteggiamento certe volte talmente provocatorio, a essere quindi amato o detestato quasi come un club, quasi come una squadra di calcio. E oggi gli interisti, io sono sicuro che il 99% degli interisti sono dispiaciuti del suo esonero, e magari invece tanti che l'hanno avversato perché erano rivali di quell'Inter, juventini, romanisti, milanisti, magari avranno goduto in maniera sottile. Chiaramente Ancelotti o lo stesso Guardiola o non lo so, lo stesso Hiddink, al quale faccio un grande in bocca al lupo, non hanno lo stesso tipo di atteggiamento, sono più gente di tutti. Mourinho, da sempre, essendo un provocatore, essendo un allenatore di straordinaria personalità che vuoi sempre dalla tua parte e mai contro, e se ce l'hai dalla tua parte lo ami, se ce l'hai contro lo detesti, si prende questo tipo di atteggiamento, ma lo vorrebbero tutti. In qualche modo è come il discorso di Conte. Tra Conte e Allegri stiamo parlando di due personalità completamente diverse, nel senso che Conte è chiaramente stato un allenatore simbolo, ma se tu adesso fai un sondaggio fra i tifosi della Roma, secondo me, visto che si parla di Roma, non lo so, non faccio Mannheimer, ma l'80% secondo me gli farebbe il contratto come mattina. Assolutamente. Chi se ne frega che è stato una bandiera della Juve. Guarda, c'è chi scrive, o stesso discorso per il Milan. C'è chi scrive: a godere sono i rosiconi, quelli che lo invidiano sono frustrati. Un altro invece scrive: ci sono almeno 10 allenatori meglio di lui che fa spendere una marea di soldi e il terzo anno fallisce. Assurdo discutere Muri, rimane sempre lo special one, perché poi in realtà, e secondo me questo è il tema al di là del godimento, però se volete godere con noi o se al contrario siete quelli che ritengono che oggi esultino soltanto i rosiconi, 800 24 00 24, invece il tema secondo me è capire, perché qualcuno tra le righe lo scrive, se davvero Mourinho, lasciato l'Inter, lasciato il triplete nel 2010, ha un po' imboccato una parabola, io non dico discendente, insomma, ma non più in ascesa della sua carriera, Paolo. No, secondo me no, perché comunque lui ha vinto un campionato in Spagna. Allora, in Spagna i suoi 3 anni, tutto sommato, ha vinto poco. Però comunque ha vinto un titolo con Guardiola al Barcellona. Che il grande duello era quello. Poi credo che sia l'unica Liga vinta da Perez in questa seconda tornata da presidente. In questa seconda data del presidente sì, assolutamente. Gli altri, Ancelotti compreso, non ce l'hanno fatta. Sì, però ha vinto la Champions League, che secondo me vale anche di più. Sì, comunque sì, lui ha vinto a Barcellona e 2-1 c'ero quella sera, e ha vinto la Liga, e anche con il Chelsea lui ha rivinto l'anno scorso un campionato. Il problema del quale lui, stranamente, perché insomma io ho conosciuto due persone di intelligenza assolutamente superiore a fare quel lavoro, e una è Mourinho e l'altra è Guardiola. Sono due che hanno una testa che viaggia, direi, alla velocità di un Bobby Fischer, di un Kasparov, degli scacchisti, quelli che si scopre avere un quoziente intellettivo di 180 o cose del genere. Ecco, per me Mourinho e Guardiola appartengono a quella categoria. Ecco, detto questo, non capisco questo suo, ormai è chiarissimo che lui dura due anni, è chiarissimo, dovrebbe averlo capito alla perfezione. Invece prima Madrid e poi difatti all'Inter lui ha fatto proprio il percorso perfetto. Non capisco come mai prima a Madrid e poi al Chelsea lui abbia pensato di poter diventare un Ferguson, cosa che non sarà mai. Mm. Ma lui non è un Ferguson, yeah, perché lui non è un marito, lui è un amante. Sì, sì, sì. Insomma, le donne lo considerano sexy, ma credo anche gli uomini lo considerano sexy. Nel senso, comunque quel tipo di personalità, di antagonismo, di aggressività anche certe volte ovviamente combina molto di più con le categorie dell'attrazione, della passione, del sesso, sfinimento, molto di più rispetto ad altri allenatori. Io penso che in generale lui posso citarti, Pier, l'hai detto te, io non l'avrei letto, Stefano che scrive su WhatsApp, si può? Mourinho è stata una grandissima trombata, se fa qualche cilecca ci può anche stare. Vabbè, ma è ovvio, ma no, ragazzi, credo sia un tifoso interista, questo è chiaro che è una metafora, no? È chiaro che è una metafora, però l'hai usata tu la metafora, allora abbiamo citato anche Stefano. La metafora c'è, ci sono persone meravigliose, amici meravigliosi per andare a fare quattro litate a cena e divertirsi raccontandosi le barzellette, amici meravigliosi perché ti consolano se c'hai un problema. Cioè, la vita è fatta di cose diverse. Mourinho sicuramente è bello e pericoloso, è bello e pericoloso e velenoso, è stronzo in senso buono, mille volte lo è stato, fa parte del suo essere e ci ha giocato su questa sua peculiarità, quindi non ci trovo niente di male. Penso che a proposito di un possibile percorso, diciamo, di una possibile parabola discendente, qui il problema è che essendo lui un allenatore di grande carisma, un allenatore mediatico, un allenatore che si alimenta dei suoi successi e della sua fama, questa è una macchia. Questa è una macchia pesante, secondo me, sulla sua carriera. Anche se non si è fatto esonerare, esattamente come capitò nel 2007 sempre con Abramovic. E siccome, infatti, Mourinho, secondo me, è un grande, a parte che Mourinho è un grande conoscitore di calcio, chi dice il contrario sbaglia. Però posso essere d'accordo sul fatto che magari ci sono allenatori più allenatori, allenatori che dal punto di vista tecnico e tattico sono superiori a Mourinho. Mourinho, secondo me, il meglio ce l'ha proprio in questo rapporto, ripeto, quasi di amore morboso che riesce a stabilire con i suoi giocatori, la capacità di tenerli sulla corda. E questo nel calcio di oggi, che è un calcio mediatico, dove i ragazzi di 20 anni che fanno i calciatori devono avere un allenatore figo, c'è niente da fare, devono avere un allenatore figo, perché se l'allenatore è figo, se li trascina in un certo modo, se ha quel tipo di carisma, lo riconoscono. Se non ce l'ha, non lo riconoscono. Mentre magari 30 anni fa l'allenatore poteva essere un'autorità, Paolo me lo potrà confermare o smentire, che dovevi rispettare a prescindere, no? Quindi avevi più, sì, rispetto. Cosa me. Che oggi non capita più in uno spogliatoio. L'unico problema per Mourinho può essere questo, che un po' della sua aurea da vincente assoluto e quindi della sua figaggine da oggi tenderà ad attivare. È un po' meno figo. Allargo discorso, così poi chiudiamo con Paolo Condò. Poi però vi devo far sentire una cosa di Perez, che ci ha praticamente detto chi sarà l'allenatore del futuro del Real Madrid. L'allargo a Carletto Ancelotti. Oggi Guardiola ha detto, domenica dopo la partita con l'Hannover saprete tutto, vi dirò che cosa faccio. Ancelotti, insomma, ormai è il segreto di Pulcinella, Paolo, no? Ancelotti va al Bayern di Monaco. Credo che fra 15 mesi saremo qui a celebrare il primo a vincere titoli in tutti i 5 campionati top d'Europa, perché la Bundesliga è abbastanza una passeggiata di salute per il Bayern Monaco. Però a proposito di figaggine, insomma, Ancelotti è il top da questo punto di vista. No, Ancelotti è il punto d'equilibrio fra i due che ho citato prima. È il perfetto punto d'equilibrio, perché Mourinho e Guardiola sono, e anche per questo il loro confronto è il più affascinante che esista, sono proprio gli antipodi, sono diversissimi come calcio e anche come approccio alla vita. E Mourinho è il perfetto punto di Ancelotti è il perfetto punto di equilibrio, anche tatticamente, ma anche come personalità, e quindi è quasi inevitabile che una grande squadra uscita da un'esperienza con Guardiola o con Mourinho, certo, si affidi a Carlo, perché è quello che è sufficientemente bravo da poter proseguire, adattarsi a ciò che trova, è sufficientemente intelligente da non volerlo stravolgere per imprimervi il suo marketing. Sì. Così come Paolo, se sei d'accordo, Mourinho invece è perfetto in questo momento. A parte, diciamo una cosa, che ci mancherà, perché Mourinho è un personaggio. Sì, ma ci manca per poco. Non è che ci mancherà, è come tu stavi giustamente dicendo prima. Io spero che torni in Italia. Ma mi è mancato in questi anni. Da morire. Sì, chi lo prende? Paolo, chi lo prende? Noi abbiamo una grande che è senza allenatore praticamente, Garcia, e c'è un club come la Roma che ragiona se esonerarlo o no, perché ha lo stipendio da 2 milioni e mezzo netti. Figurati se si può ragionare su un ritorno. Però ragazzi, c'è la borsa. Potrebbe esserci il Manchester City. Sì, però non gioca in Serie A. Questo ti sta dicendo Paolo. Secondo me il più probabile è il Manchester United. Ecco. Che certamente cambierà Van Gaal, però la Roma perché non si dovrebbe muovere? Non vedo perché no. Perché no? Insomma, noi siamo qui, siamo contenti. Appunto. Se torna. Ciao Paolo, grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Perez ve lo faccio sentire dopo. Sì, dai, adesso c'è la borsa. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Convocati. ¿Benítez va a ser sustituido por Zidane? Pues no. A pesar de que algunos medios se han puesto de acuerdo para eso, pues yo repito otra vez que los entrenadores los nombra el club, que Benítez ha venido a resolver un problema. Y por tanto Benítez es la solución, no es el problema. Aposté y cambió de la historia del Real Madrid desde el año 2000, eso seguro. Y será seguro un día un gran entrenador, que no tengo ninguna duda, y además que será entrenador del Madrid. Pero dicho eso, esto no toca hoy. Hoy estamos... ¿Usted cree que Zidane será entrenador del Madrid? Bueno, estoy seguro, él quiere, ha aprendido a pasos agigantados. Esto es como el hambre de balón, se le nota, se le ve y será entrenador. Quindi Zidane è un uomo del club, un giorno sarà allenatore del Real Madrid, ma quel giorno non è oggi, perché oggi c'è Benitez non è il problema, è la soluzione del problema. Questo era Florentino Perez, presidente del... Da risolvere un problema fa ridere. Sì, però sarà a giugno Zidane, credo, allora allenatore del Real Madrid, o no? In questo valzer di panchine... Se Benitez non risolve il problema, pare chiaro che a giugno cambierà. Sono troppe incognite, bisogna vedere che fa da resti avanti. C'è tutta la stagione davanti. In questo momento, secondo me, il bilancio di Benitez è nettamente negativo. Ma io non sono neanche d'accordo, ma io in questo sono un ultra di Ancelotti. Non sono neanche d'accordo con l'idea che ci fosse un problema prima. Il Real l'anno scorso è uscito in semifinale della Champions League, sicuramente ha avuto la migliore delle stagioni della sua storia, ci poteva stare quel tipo di decisione, ma secondo me è stata prematura e poi è stato sbagliato tutto. Sì, intanto noi ospitiamo tutti, noi siamo convinti che Bonino resti un grande, a casa hanno idee diverse, Pier, te ne leggo alcune, è un Vannamarchi scientifico, poi un altro amico che dice è l'allenatore più sottovalutato degli ultimi 15 anni, e poi ancora è un presuntuoso spaccone, insomma, diteci quello che volete. 800 24 00 24. Antonio da Salerno. Antonio, ciao, salve, grazie. Eccoci. Della comunicazione. No, io parlavo un po' del Milan, sono un tifoso del Milan purtroppo. Sì, in questo prego. Periodo me la passo proprio male. Ieri sera un po' meno, no? Un po' meno, lasciamo stare, dai. Anche ieri sera ho dovuto stare un'oretta con mal di pancia, grazie pure a Max Fest. Io c'ho un pulmino a 15 posti, vorrei andare a Milanello a prendermi una quindicina di giocatori e portarli in Azerbaijan a giocare a calcio, perché non è possibile fare un mercato con José Mauri, non si riesce più ad acquistare un giovane di valore. Sì, però Antonio, il mercato del Milan, cioè, non è solo José Mauri, cioè, il mercato del Milan è Bacca, è Bertolacci, è Romagnoli. Okay. Romagnoli, sì, ma Romagnoli fa il compitino, fa il suo gioco da 6, si mette lì, non ha, io lo vedo un Nesta, un nuovo giocatore. Io ricordo quando venne Gattuso a Salerno, quando la Liberti, il presidente della Salerno, prese Gattuso, era un ragazzo, non lo conosceva nessuno, primo allenamento, si vedeva in campo il giocatore. Sì, chi è quello? No, quello è dei Rangers, Gattuso, chi è? Cioè si vedeva il calciatore, si vedeva dalla grinta, dalla personalità, non fa un lancio, non si propone, è un giocatore normale, non valerà i 25 milioni perché il mercato era un po' strano quest'anno, perché Bertolacci 18 milioni, ci sono i giocatori dell'Atalanta, quel centrocampista che ha preso il Torino è un gran bel giocatore, sì, è stato sempre a costo dal Milan, mai preso, mai tentato, abbiamo preso a costo zero José Mauri, cioè calciatori per il risparmio, poi si va a pagare Bacca 40 milioni di euro. È un buon giocatore, però. Sì, Pier, io non so come la pensi tu, Pier. A me, ad esempio, Romagnoli sembra un buon investimento, insomma, tutto considerato. Pagato molto, probabilmente non ancora prontissimo. Avrebbe bisogno di un giocatore di esperienza vicino. Non è in prospettiva, credo che Romagnoli sia assolutamente indiscutibile. Quindi, io penso che quel tipo di investimento è un investimento che si ripagherà. Certo, ci si aspettava che fosse pronto prima, ma anche la squadra non lo aiuta in maniera particolare, quindi da questo punto di vista non mi sento di dire che il Milan abbia sbagliato. Certamente si è preso un rischio e fino a questo momento l'investimento non è granché ripagato, ma insomma Romagnoli mi sembra l'assegno circolare, sì, mi sembra che si debba dargli tempo e comunque già il rendimento non è pessimo. Saluto Luca Serafini, ciao Luca. Buongiorno a tutti. Cioè, non è tutto da buttare via del Milan di quest'anno, del mercato di quest'anno, o no? No, poi per carità di Dio, proprio Romagnoli, Bertolacci, Niang, quelli sono sicuramente degli investimenti che sono da Milan, perché sono giovani che hanno delle prospettive eccellenti, che volevano in tanti, quindi per carità. Poi il tema si sposta senz'altro su altri tipi di acquisti, perché Bacca sarà anche un po' un giocatore come Luis Adriano, però non si capisce perché si vanno sempre a prendere da quella parte. Si possono prendere dei giocatori, si poteva prendere quelle da Southampton che costava molto meno di Bacca. Non mi pare che Bacca o Luis Adriano oggi come oggi e con la carriera che hanno alle spalle siano meglio di un Pellissier, tanto per fare un nome. Bacca è un attaccante che ha vinto due volte l'Europa League. Pellissier non mi risulta. Nel Siviglia, perché anche Gambaro ha vinto una Coppa dei Campioni nella sua storia, però sì, non segnando il gol che ha segnato Bacca. Adesso, per carità, poi si può criticare, non c'è problema. Scusami, Luca, 40 milioni. Bacca 40 milioni mi sembrano 30. Mi pare 30 che non sono comunque pochi. No, volevo dirti, ma prenderli tutti da quella parte, cioè in realtà la critica qual è? La critica nei confronti di Galliani che fa affari sempre con gli stessi procuratori. Parliamoci chiaro, è questo il punto? Sì, sto parlando di questo. Il Milan compra giocatori dal Genoa, compra giocatori dalla Spagna e finisce lì, cioè dove ci sono gli amici degli amici e le riserve delle squadre degli amici. Questa è l'operazione che sfugge al momento. Ogni tanto Boateng, che arrivò già attraverso il Genoa di Preziosi, tanto per cambiare, attraverso le amiche, ma sempre attraverso parentele di qualche tipo. E questo non è, siccome non è che stiamo parlando, sai, poi c'è la squadra che vince, c'è un po' di giocatori che se ne frega, no. Siamo passati attraverso Birsa, attraverso Constant, attraverso lo stesso Kuchka, che ce n'erano 18.200 meglio di lui da tutte le parti, cioè è questo. E poi ripeto, se ci fossero risultati, ci fosse un rendimento, però stiamo parlando di giocatori che sapevamo già di che livello sono. Bacca può averne vinte anche 18 di Europa League, però è un giocatore che faceva i suoi gol nel Siviglia, che non ha mai suscitato delle attenzioni. È un mercato particolare e secondo me in Europa ce ne sono almeno una ventina come e meglio di lui, che probabilmente costano molto meno. Poi per carità non discuto Bacca, perché se discuto anche quello che ha segnato più gol nel Milan in questa stagione, sì, diventa complicato. No, infatti diventa complicato, per carità, se ne va, anzi averne, però di buono c'è sicuramente questo. C'è Niang, c'è Bertolacci, c'è Romagnoli, c'è Donnarumma. Che Bonaventura ha preso l'anno scorso. Poi un amico scrive: Bonaventura non è un colpo di Galliani, ma di Marino, che gliel'ha portato su un piatto d'argento. Sì, per carità, c'è sempre qualcuno che vende, però c'è anche qualcuno che compra. anche di Zaghi che lo ha pietito, poverino, lo ha pietito nelle ultime ore di mercato perché aveva bisogno di un giocatore di quel genere con quelle caratteristiche. Quindi, però vabbè, viva Dio, Buonaventura l'hanno preso. Poi è la gestione in generale, cioè, ho appreso e diffuso questa notizia che mi ha lasciato veramente sconvolto, che Milan ha incassato nella scorsa stagione con quella corrente 300.000 euro nel 2015 di multe interne per motivi disciplinari che vengono devolute per beneficenza. 300.000 euro. 300.000 euro e passa, e la media storica sono 50-60.000, non so se mi sto spiegando, cioè anche le caratteristiche un po' professionali umane, ci sono dei giocatori che sono... Ah, ma questo, questo sicuramente, cioè il Milan secondo me, vedendolo da fuori, è uscito da una... da un periodo magico nel quale la forza era rappresentata da alcuni giocatori che si mescolavano e incarnavano lo spirito della società. Cioè, secondo me questo elemento sulla disciplina, sì, è cosa che oggi non è più, cioè non ci sono più quelle figure nella quale la Juve devo dire è riuscita, ma nonostante i disastri di qualche stagione fa, è riuscita invece rapidamente a ritrovare la strada. C'era una parola chiave che oggi proprio oggi come giornata sta manifestando il Bayern, che si chiama progetto, che si chiama programmazione. Il Milan per 25 anni aveva concluso la sua campagna acquisti a marzo. Una volta io feci una battuta a Galliani, c'erano i tifosi che rumoreggiavano dopo una campagna acquisti che fra gli altri aveva portato lo stesso Zambrotta al Milan. Gli dissi: ma perché non vi tenete un acquisto, un colpo, una sorpresa a maggio, a giugno, così i tifosi lo smettono di brontolare? Eh sì, è vero, ci dovevo pensare, perché a marzo il Milan aveva fatto, e il Milan prendeva capitani, capitani delle nazionali, palloni d'oro, e non era necessario spendere una barcata di soldi, perché prendeva anche dei giocatori che erano funzionali due o tre stagioni, parliamo di Stam, parliamo di Van Bommel, parliamo dello stesso Cafu, che poi è durato molto più a lungo di quello che si pensava, però che avevano anche dei requisiti umani e professionali certificati. Sì, oggi siamo ai giorni del Condor. Luca, ti chiedo un minuto di pazienza, c'è il traffico, poi quando rientriamo vi faccio sentire Mihajlovic, che ha detto che era serenissimo. Ci sono anche un po' di commenti da casa, c'è da capire se davvero Mihajlovic mangia il panettone oppure se domenica sera magari siamo qui di nuovo a discutere della panchina del Milan, del futuro, non lo so, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Fortuna, c'è un carattere forte, perciò mi scivola tutto addosso e non mostro i ceni di nervosismo, sono sempre sereno, non preoccupato, perché so che abbiamo tanti margini di miglioramento, fiducioso, squadra sempre si è allenata bene, sempre, mi potrei preoccupare se vedo se squadra non sta con allenatore o se squadra non si allena bene, ma penso che è un gruppo unito e la squadra ha dimostrato anche oggi che è un gruppo unito, si è sempre allenata bene, perciò sono sereno da quel punto di vista. Questo Mihajlovic ieri, scrive un amico al 349-238-6666, Mihajlovic era sereno come Letta dopo il tweet di Renzi. Credo non sia sbagliato. Allora, un diluvio di messaggi. C'è chi dice l'analisi di Luca Serafini è perfetta, c'è chi dice lo ammiro ma il suo pessimismo è cosmico. C'è chi dice di mettersi gli occhiali perché Bacca è fortissimo. Luca? Ma il calcio è bello perché ognuno ha la sua opinione, cioè io mi ricordo che ci sono stati dei momenti in cui veniva contestato Shevchenko o lo stesso Van Basten perché avevano dei momenti in cui segnavano meno, ci sta anche, è stato fischiato Rivera al Milan, quindi figurati se possiamo contestare qualcuno, se non si può che contestare Bacca o meno. Io non sono pessimista, io ho raccontato, ho avuto la fortuna professionale di seguire e raccontare il Milan per 25 anni, vivendo e raccontando la storia di un club strepitoso per tutto quello che ha fatto dal punto di quello che ha vinto a livello sportivo, perché non era casuale, non era soltanto frutto dei soldi, c'era una programmazione unica che veniva rispettata, c'era rispetto per gli avversari, c'era il presidente che andava negli spogliatoi della squadra avversaria prima che nella sua, quando aveva vinto e quando aveva perso, questa roba. Io descrivo semplicemente un panorama che non esiste sì, più. Adesso va solo dopo, è anche questo il tema di polemica. Ma quando adesso, ci va, dice. Solo in quella della squadra avversaria. Sì, sì, prego, appunto, ci va dopo, esatto. Però non è un bel segnale a proposito di star sereni. Io mi sento di poter dire che quest'anno secondo me fa eccezione. Poi è evidente che i risultati non stanno arrivando e quindi i risultati fanno opinione. Secondo me quest'anno il Milan ha fatto un mercato importante che secondo me deriva anche da comunque degli scenari di carattere di cessione, perché sì, di macroeconomia. Poi non so se arriverà mai questo Mister Bino, sentiremo Bellinazzo, però voglio dirti sicuramente quest'anno il Milan è tornato a fare il mercato in cui ha speso, questo non ci sono dubbi, è speso per giocatori di prospettiva. Poi i risultati non stanno arrivando, questo è vero, e quindi è evidente che la frustrazione dei tifosi è stragiustificata. Ma secondo me il mercato di quest'anno c'è poco quello del passato, ma proprio poco. Sì. Sul recente passato sono d'accordissimo. E con Luca, forse Pierre era anche illusorio pensare in un'estate sola di mettere a posto 3-4 sì, anni di mancati investimenti. L'Inter c'è riuscita. Sì, ma l'Inter non era ferma da 3-4 anni, perché ad esempio Icardi è un prodotto del mercato degli ultimi anni, Brozovic è un prodotto del mercato precedente a quest'estate, cioè c'era stato qualche movimento, anche Kovacic che è andato via per una certa cifra. Il Milan quegli uomini lì, anche quelli da vendere, non li ha, perché negli ultimi anni non ha mai investito. A questo punto evidentemente entra in gioco anche un po' la responsabilità dell'allenatore, perché quest'estate lascia perdere che fosse calcio d'agosto, comunque c'era Real Madrid, c'era l'Inter, c'era la Coppa Italia col Perugia, al di là dei risultati il Milan aveva dato la sensazione di essere una squadra che faceva delle cose in campo, faceva un po' di pressing, c'erano dei movimenti, c'era corsa, c'erano gli attaccanti che incrociavano, c'erano i centrocampisti che si inserivano e viva Dio, c'erano degli uomini di terzini che spingevano. Pronti via la prima di campionato, è scomparso tutto questo con un colpo di spugna. Il Milan ha giocato a calcio, a pallone, nel primo tempo con l'Inter, un'oretta con l'Inter, il primo tempo con l'Udinese, con la Lazio e con la Sampdoria, punto e fine. Tutto il resto è stato schiacciato dal Torino e domenica contro il Verona nei primi 20 minuti non ha superato la metà campo. A Carpi la stessa sì, cosa. C'è un problema di gioco, non può essere ricondotto tutto ai problemi societari. Io adesso non, perché poi veramente poi sembra uno, però qui secondo me ci sono delle responsabilità dell'allenatore. Poi se l'allenatore questi acquisti non li voleva, se non c'è stata una piena sintonia, questo è un altro discorso. Però insomma francamente io credo che quei soldi che ha speso il Milan quest'anno e comunque con la rosa qualcosa in più sia lecito aspettare. Ecco, qualcosa in più si deve aspettare. 30 secondi Luca, ha ragione chi dice sta sereno come Letta dopo i tweet di Renzi, o abbiamo chiuso con la qualificazione al quarto di finale Coppa Italia, che forse significa andare dritti fino alla finale di maggio, il tema panchina di Mihajlovic? No, beh, a me risulta che già in un paio di occasioni abbia manifestato lui con qualche collaboratore la tentazione delle dimissioni, andarsene. Però temo purtroppo che per lui, che se non cambiano le cose da Frosinone in poi sarà sempre la penultima, l'ultima spiaggia tutte le domeniche, perché è difficile, o improvvisamente il Milan torna a quello d'estate e quello visto in 3 o 4 occasioni sporadiche in questa stagione, guarda caso con, poi mi viene a dire, con squadre sofferenti, perché la Lazio e la Sampdoria incontrato il Milan in un momento particolarmente negativo, però cambia il registro anche sul piano del gioco, non parlo tanto di risultati, cioè di una squadra che va in campo, fa il suo, può vincere, perdere, pareggiare, però non che gioca come contro il Napoli a San Siro o delle partite al limite dell'indecente come quest'anno, insomma, sì, cioè dipende anche in molto parte anche ieri, insomma, considerato chi aveva davanti, non è stato un grande spettacolo. Grazie Luca. A voi. Grazie a Luca Serafini, 800 24 00 24. Alfonso da Salerno, Giulio da Bari. Partiamo da Alfonso. Alfonso. Salve, io volevo fare un paio di osservazioni. La prima era che secondo me il problema del Milan non è tanto l'allenatore adesso in questo momento del giocatore, il problema del Milan è il progetto di base che è assente assolutamente, e la confusione di base che c'è nell'ambito della società, non tanto della panchina e dell'allenatore, che è un ottimo allenatore, gli acquisti sono ottimi acquisti, ma secondo me manca, cioè c'è proprio un caos a livello societario, la prima osservazione. La seconda era che secondo me l'Inter, adesso non si parla di Inter che è in crisi eccetera, perché è al primo posto e ha fatto tanti punti, però se vogliamo gli acquisti che ha fatto non stanno brillando, lo stesso giocatore, lo stesso gioiello dell'Inter che è Icardi non sta brillando, quindi faccio questo paragone per dire che ok, l'Inter al primo posto ha vinto non so quante partite, 1-0, ma potremmo tranquillamente parlare di poco, diciamo, di poco gioco anche dell'Inter, non solo del Milan. Sì. Conta 1-0, vale. Ecco, esatto, non è che 1-0 cioè, vale 2 punti invece di 3. Io sono d'accordo sul fatto, sapete, penso dell'Inter. L'Inter, secondo me, fino a un mese fa era abbastanza un mistero, perché ha vinto veramente tante partite con mega parate di Handanovic, che chiaramente fanno parte del gioco, ci mancherebbe altro, il portiere lo pagano. Però insomma ha vinto tante partite senza dare la sensazione di poter durare. Da un mese e mezzo a questa parte però la squadra è cresciuta molto come quantità di talento offensivo, ha ritrovato dei giocatori, Icardi è l'ultimo, prima c'è stato Djajic, c'è stato Jovetic, c'è Brozovic in questo momento che sta facendo cose importanti, quindi io non, l'Inter non è prima a caso. È troppo facile dire che una squadra è sbagliato concettualmente pensare che dopo 16 giornate uno possa essere in testa alla classifica. Tra l'altro, mi sembra che il paragone Pier col Milan non ci stia, ma probabilmente pesano anche i 6 mesi in più che ha avuto Mancini. Aspetta che riusciamo a fare Giulio da Bari prima del GR. Vai. Giulio, buon pomeriggio. Eccoci, prego. Ne approfitto per salutare Pardo, sì, visto qua. Che dal tifoso dell'Atletico del Madrid l'ho incrociato diverse volte. Nell'avion. No, parliamo Bares. Ho apprezzato tantissimo la sua simpatia. Vi chiamavo solo per raccontare un piccolo retroscena, sì, a proposito di Mourinho, perché 2 mesi fa Jorge Mendes, che è il suo procuratore, era a Madrid, forse fiutando anche la fine di un rapporto logoro con il Chelsea, per offrirlo all'Atletico 2 mesi fa per la prossima stagione, salvo poi però scontrarsi con delle difficoltà economiche, anche di spogliatoio, perché Felipe Luis non ne ha parlato benissimo ai suoi compagni. Sì, non credo sia il problema Felipe Luis, mi sembra più il problema quello economico, Giulio, Pier. Sì, cioè, credo che Mourinho assorbirebbe il 20% del fatturato dell'Atletico Madrid. Adesso non vi voglio annoiare, però. No, ma Giulio, che se non sbaglio è abbonato, no? Sì. A Madrid, che fa avanti e indietro per l'Italia e la Spagna, lo darebbe come un ricco, e quindi bisogna tenere in piedi. Beh, sai, è una suggestione. Sì, Madrid è una suggestione. È una suggestione. Nella carriera di Mourinho, adesso che cosa ci potrebbe essere? È un po' come il Milan, Pier. Poi ti devo salutare perché siamo al GR. È un po' come il Milan. È un po' come il Milan, i tifosi del Milan adesso lo vorrebbero, quelli dell'Atletico anche, ma non lo so. 800 24 00 24, a me già manca comunque. Sì, a me già manca. Anche a me. Ci vediamo domenica, torniamo dopo il GR delle 15. Ciao. E saluto anche Gianluigi Pardo. Tutti convocati. Beh, che sia un Natale che sotto l'albero porti la svolta non solo economica e non solo a parole. Un Natale in cui stare attenti. Molto, ma molto attenti. Perché se c'è una cosa in cui siamo tutti convocati, è proprio Natale. Radio 24. La passione si sente anche a Natale. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Allora, 800 24 00 24, poi apriamo il capitolo dedicato alla Roma. A proposito, fa discutere quello che ha detto prima Paolo Condò. Mourinho alla Roma, perché no? Perché no? Non so, rispondeteci, 800 24 00 24, anche chi se lo riprenderebbe, chi invece continua a sostenere che sia un montato, un presuntuoso, un sopravvalutato, noi qui la pensiamo diversamente, anche il giorno dopo il suo esonero, anche se poi tecnicamente non è un esonero con il Chelsea. Gennaro da Napoli, Gennaro? Sì. Eccoci. Io intervengo per esprimere il dissenso nei confronti di Mourinho. Sì. Che t'ha fatto? A me non è piaciuto assolutamente quell'atteggiamento di Mourinho quando ha pretese che la dottoressa andasse in ritardo nel campo e ha pretese il suo licenziamento. È stata una mancata occasione della federazione inglese, ma anche della dirigenza del Chelsea, di punire esemplarmente quell'arroganza di questo allenatore. Io sono un medico, non si può far passare un messaggio che il medico non debba intervenire quando c'è una persona che sta male. Ma tu hai ragione, Gennaro, in quell'occasione era evidente che Mourinho sosteneva una parte insostenibile, no, Gennaro? Ma però non è passato il concetto che il medico ha fatto il suo dovere e lui è stato arrogante, anzi è passato il concetto che la simulazione è un fatto normale nel calcio e quindi non si educa certamente in giunta da questo punto di vista. Secondo me la chiave di lettura è un'altra, cioè posto che Mourinho nella vicenda con la dottoressa Carneiro del Chelsea sosteneva una posizione insostenibile, poi noi sappiamo che Mourinho sempre battezza una o due persone all'interno del suo club, siano giocatori, siano dirigenti, sia parte dello staff medico, perché non è la prima volta che succede, li battezza e li usa per accrescere la propria leadership, solo che questa volta non gli è riuscito, è l'unica differenza. Ma voi ricordate i duelli anche all'Inter con lo staff medico, ricordate i duelli al Real Madrid, fece di mettere Valdano, cioè non l'ultimo arrivato in casa del Real Madrid. Paolo dalla provincia di Torino, Paolo. Sì. Eccoci. Ciao, no, proprio per questo fatto che hai accennato adesso, no? Cioè, il fatto è questo, che questi sono dei manager, no? Gli allenatori sono dei manager. La paura, ma poi questo è un po' che si vede nell'occhio di tutti, è proprio il fatto di questo, dato che i soldi ormai sono diventati, e sono dei manager che non prendono poco, è premesso questo, per cui attenzione che sì. Stiamo parlando di persone che guadagnano delle cifre che noi non ce ne rendiamo neanche conto. Anche il fatto di Milai o Mourinho, che poi riesce a fare del marketing, riesce a fare anche del gruppo, riesce a non fare del gruppo, arriva un punto che proprio sotto un aspetto che invece quando si guadagna, mi vuoi esonerare? Benissimo, ci sono allenatori fuori che sono esonerati dove guadagnano ancora le stesse cifre, perché sei tu che mi stai dando l'esonero per motivi X che poi possono essere di vario genere. Per cui proprio il fatto che è un po' il male del calcio, che ce lo diciamo ogni giorno, no? Il fatto che questi manager guadagnano delle cifre proprio per i mass media, per me perché è diventato un business anche proprio di comunicazione, no? Per cui sì, io vedo nessuno ha obbligato Abramovic a firmare il contratto che ha firmato con Mourinho quando ha rinnovato, comprese quelle clausole per eventuali esoneri, Paolo. Infatti, ma io stavo tornando al discorso anche con Milago, no? Che mi diceva volevo dare le dimissioni. Poi invece non ho dato le dimissioni e queste cose qua. Ma allora scusate un attimo, sinceramente una volta che uno ha in mano un contratto di quel genere puoi far tutto quello che vuoi. Io cerco di dare la mia impostazione, il mio modo di essere, queste cose qua. Poi automaticamente diventa un po' di secondo qua. Questo lascia un po' il tempo, però io sono convinto che bisognerebbe dare dei parametri proprio generalizzati sul fatto di questi manager. Poi tutti bravi, perché Mourinho è bravo, Mihajlović non metto in dubbio che è un bravo tecnico, ma lei sa quanti fanno il corso in Lega di primo fascia, di primo livello, per fare, e sono bravissimi. Io dico, sì. Ho parlato con un Longo della Primavera del Torino. Sì, però quanti di quelli poi reggerebbero a queste pressioni? Perché ci arrivano pochi su quelle panchine, ma ne abbiamo visti anche tanti che poi non ce la fanno, e non solo nel salto tra il calcio dei giovani e il calcio dei semiprofessionisti o dei professionisti, non ce la fanno e basta, e di debuttanti ne abbiamo visti tanti in questi anni anche su panchine importanti, Juventus, Ferrara, Del Neri che non era un debuttante ma non ha retto, Inzaghi al Milan, perché poi c'è anche quell'altra parte, quella che ha Mourinho, che Mourinho incarna alla perfezione e che si paga, perché poi quando sei a capo di un capo tecnico di un'azienda che fattura 500-600 milioni di euro legata al risultato di 11 calciatori, devi avere qualcosa anche del manager. Non, l'allenatore ha cambiato come figura, almeno io la penso così. Paolo da Milano, Paolo. Salve, io invece penso tutto il contrario. Secondo me l'allenatore non dovrebbe fare il manager, ma dovrebbe fare l'allenatore, cioè quello che fa giocare bene le squadre. Se poi questo allenatore si chiama Mourinho, Mancini, che per vincere, l'esempio di Mourinho, ha fatto fallire l'Inter, o lo stesso Mancini per tentare di vincere sta facendo spendere l'ira di Dio, sì. Allora non mi risulta che l'Inter sia fallita, Paolo? No, fallita lo dicevi come paradosso, come paradosso, certo, fallita, ma no, mi risulta che domenica sera giochi, quindi so, fallita sì, no, gioca, però ha dovuto passare di mano Moratti, cioè certo che non è fallita, sì, sicuramente il triplete è costato banche, tantissimo, è un po' come le quattro banche di adesso, non sono fallite, ma qualcuno è venuto dal cielo. Però è anche la storia, adesso per carità, poi andiamo oltre, cioè è anche la storia, le aziende evolvono, cambiano proprietari, non è uno scandalo, Paolo, prego. Tutto quello, io discuto il fatto che l'allenatore deve fare diciamo, far giocare bene le squadre. E che mi ricordo io, che ho 55 anni, allenatori che hanno fatto giocare bene le squadre ce ne sono stati quattro. Ricordo quello che ha fatto in Olanda, a giocare la nazionale olandese negli anni 70. Ricordo il buon Sacchi. E ricordo adesso il buon Sarri, che insegnano calcio. Cioè, allenatori come Mancini, Mourinho, che per vincere devono comprare di più e di tutto. Allora, se io faccio i paragoni, per me vale il più buon Giampaolo dell'Empoli, che con quello che sta facendo e con quello che ha a disposizione, se valutiamo i parametri di bravura come allenatore, ma da sì, anni sia Mourinho che a Mancini. Però sarebbe da vedere poi Giampaolo sulla panchina dell'Inter, del Milan, della Juventus. Non è detto che la resa è la stessa. Parliamo di mondiale per club. Gire Sergi, Rakitic, attenzione, Rakitic, il barattino di Estal! Gol! Il Barcelona! Lo hizo Luis Suárez, señores! Empieza a ganar el Barça! Suárez, Iniesta, levanta Iniesta para Suárez, ahí está! ¡22 minutos! ¡Así va! ¡Suárez! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Lo hizo Luis Suárez, el tercero del Barça, el tercero del uruguayo. 3 para Barcelona, 0 para Guangzhou. Insomma, ieri abbiamo visto il solito show del Barcellona, di Luisito Suárez, a proposito, da quando è stato escluso dalla corsa al pallone d'oro. Due calcoli: 23 partite giocate in questa stagione, 22 gol fatti. È l'attaccante più prolifico del terzetto magico del Barcellona, che domenica mattina, ore 11:30, si gioca la finale del mondiale per club contro il River Plate. Saluto Cesare Polenghi, collega italiano che vive e lavora in Giappone. Ciao Cesare. Ciao Joe e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sempre un bello spettacolo, Barcellona, immagino i giapponesi apprezzino. Ma sicuramente, certo, a noi fa molto piacere in ogni caso ospitare ancora questa competizione. È bellissimo, è stupendo avere qui queste due grandi squadre, soprattutto c'è molto colore, grazie ai tifosi del River Plate, soprattutto devo dire che sono veramente incredibili, hanno preso d'assalto il Giappone, gli incontri dappertutto e ci stanno facendo veramente divertire. Ma quante ce ne sono a spasso ancora? Sono tutte lì? Non sono tornati a casa? No, certo, sempre qui. Dicevi? Del Barcellona? Ma il Barcellona è chiaramente qui è quasi una religione, cioè la squadra più amata in Giappone, probabilmente anche più amata di molti dei club locali. È stata qui 4 anni fa, se non mi sbaglio, quando ancora Neymar e Messi giocavano in 2 squadre diverse. E chiaramente attrae tantissima attenzione, quindi restiamo un pochettino anche quasi sotto assedio noi media calcistici, perché un sacco di gente che normalmente non ha molto interesse nel calcio vuole sapere tutto di questo Barcellona. Purtroppo, come penso saprete, Messi c'ha una colica e Neymar è qui per onore di sponsor, però insomma. Beh, Messi potrebbe recuperare per domenica, però. Speriamo, perché sarebbe una grande delusione per i tifosi qui non vederlo. Lui è venuto un po' di volte anche con l'Argentina, una volta, e quando l'Argentina perse con il Giappone, però chiaramente rimane sempre, diciamo, uno dei numeri uno. Neymar è anche molto famoso qui, anche perché è un grande sponsor locale che ce lo propina in tutte le salse, in televisione, sui poster, però insomma vediamo. Intanto Suarez certamente non sta facendo rimpiangere gli altri due, ecco. No, dovesse mancare Messi, magari è una finale un po' più aperta, anche se ovviamente il River Plate è più forte del Guangzhou ed è più forte di qualsiasi altro avversario abbia incontrato fin qui in questa marcia di avvicinamento il Barcellona. Anche se, visto pure il River Plate in terra di Giappone, mi pare che il pronostico sia abbastanza sbilanciato. Assolutamente, penso che proprio non ci sarà partita, anche perché, ma per onestà intellettuale, non perché io sia di parte, però onestamente secondo me San Frecce probabilmente avrebbe meritato di andare in finale più del River Plate. Fate il conto delle occasioni, poi chiaro che sai, il calcio va come va, però direi che non abbiamo sfigurato, io parlo, scusa, quando uso il plurale maiestatis come rappresentante del Giappone, essendo qui da 22 anni. Sì, mi pare le asiatiche possano attendere. Insomma, il Guangzhou è la grande cinese, il grande progetto, lo conosciamo perché ci ha lavorato Lippi. Mi pare sia ancora distante dal calcio europeo, non solo dal Barcellona. Allora, naturalmente, avendo un'enorme quantità di fondi a disposizione, ha sempre degli ottimi allenatori e ha sempre degli ottimi giocatori stranieri. Sì, ci sono stati anche Diamanti, ha giocato con loro. Però cioè, purtroppo per loro devono sempre mettere in squadra comunque 7 cinesi e il livello del calcio in Cina è ancora molto molto basso. Basta guardare come va la loro nazionale. In 2 partite contro Hong Kong non sono riusciti a vincere, che è un po' come se l'Italia non vincesse in 2 partite con San Marino, per farti un esempio. Quindi direi che il problema rimane sempre quello, cioè fino a quando proprio il movimento calcistico cinese non crescerà, e ci vorrà probabilmente almeno un altro 10-20 anni. Insomma, naturalmente faranno bene a livello continentale grazie ai vari Robinho, Paulinho, Ekelson, però appena mettono il naso fuori è difficile che facciano risultati. Se poi fuori è il Barcellona, certo, il difficile diventa proibitivo. Grazie Cesare. A voi, grazie, buona giornata a tutti, ciao. Grazie Cesare Polenghi dal Giappone. Andiamo a Napoli invece, Higuain. Ancora è lontano un primo posto, è il massimo cannoniere di Napoli, ma per me è un obiettivo, ovviamente. Quanto più gol faccio è meglio per tutti, e speriamo di fare più gol possibile. Dopo, se arrivo o non arrivo, questo non è una cosa che mi fa impazzire, mi farebbe impazzire di più che mi gol aiuti a vincere qualcosa a Napoli. Ha anche detto che non può promettere che resterà a Napoli fino alla fine della carriera, eh? Sincero, Higuain. Alessandro da Modena. Alessandro. Sì, ciao. Due spunti, sì, sull'Inter. Mancini è un grande allenatore, nel senso che è limitato dire che vince solo perché ha grandi giocatori. Tutte le grandi squadre vincono perché hanno grandi giocatori e spendono tanto. Suarez non è stato regalato al Barcellona. Sì. Neymar neanche. Il Bayern è pieno di campioni acquistati a fior di quattrini, Benassiar, Robben, Ribéry. Quindi basta col mito che Mancini vince perché si fa comprare i giocatori, perché tutte le grandi squadre... È un bravo squadre... costruttore di un progetto sul mercato, Mancini. Esatto. L'altro spunto, scusatemi, è sulla questione che Mancini non ha un modulo, non ha un assetto tattico definito. In realtà è la sua forza, e lo fa apposta. Cioè lui ha 4-5 moduli, li alterna, li adatta in funzione di quello che sono le squadre che incontra e gli sta dando ragione. Quindi insomma è uno spunto, volevo capire se voi eravate d'accordo. Sì, è stata la sua forza, c'è anche il rischio che sia al limite, c'è qualche passaggio in questa stagione in cui non è stato chiaro quale fosse l'identità tattica dell'Inter, qualche punto forse è stato perso anche per quello. Io credo, ma questo è un margine di crescita dell'Inter oggi, più che un limite, credo ad esempio che Mancini non sia ancora riuscito a far rendere perfettamente Perisic con Dogbia, che sono i due colpi più importanti del mercato, e quindi significa che forse non è ancora pronto a dare una veste definitiva dal punto di vista tattico all'Inter. Poi siccome difende bene, ha un ottimo portiere, ha comunque delle qualità importanti in Italia, poi i punti sono arrivati e alla fine può anche essere un vantaggio, però prima o poi in quel mazzo di 4-5 moduli probabilmente dovrà restringere la scelta. Carlo da Milano. Carlo? Pronto? Sì, eccoci. Pronto, mi sentite? Però spegni le frecce, prego. Sì, Carlo. Un attimo che... Allora, facciamo Roberto da Milano. Roberto? Sì, eccoci. Buongiorno e grazie per essere stato convocato. No, era molto, stringando molto il ragionamento. Allora, il Milan è in una posizione, perché io avevo chiamato per il Milan, sono tipo sì, prego. Del Napoli, comunque sia. Il Milan? Il Milan ha la posizione che diciamo che non è che si merita, perché poi il campionato non è ancora finito, però insomma più di così non penso che possa fare con i giocatori che ha. Poi magari a gennaio prende qualche giocatore che nel progetto di Mihajlovic per il gioco può andare a genio, e magari possono rientrare dei giocatori che comunque tipo Balotelli, che secondo me non è mica l'ultimo arrivato, però insomma la posizione io penso Roberto che ci siano squadre più forti, però il Sassuolo non è più forte Sì, assolutamente. Cioè, io credo che questo Milan a metà dicembre debba stare un po' più vicino alle altre, poi dopo le altre stanno davanti. Insomma, mi sembra che 90 milioni di mercato, non tutto da buttare via, non giustifichino il fatto che Mihajlovic abbia gli stessi punti di Inzaghi oggi, o no? Sì, sì, no, sono d'accordo, però dico che comunque sia, cioè, non è che sia un'opinione mia e tua, ma il Juventus, Inter, sì, Napoli, Fiorentina, anche la Roma. Stessa Roma. Beh, sai, la Fiorentina dipende, la Fiorentina è partita bene, ma se torniamo a quest'estate, io non so quanti avrebbero preferito la rosa della Fiorentina a quella del Milan. In partenza. Vedi che comunque ha un gioco, ha dei giocatori che sono che vanno, sì, che vanno bene anche per il gioco che fa Paolo Sousa. Poi c'è il momento in cui tu sei più in forma e non in forma. Ma la cosa che, e poi ti lascio parole agli altri, che mi interessava anche dire erano gli allenatori. Gli allenatori, la differenza, come giustamente hai detto tu, sono quelli bravi a dare una solidità alla squadra, un gioco, e soprattutto capire chi sono i giocatori giusti per il proprio gioco, cioè che vogliono poi mettere sul campo. Ecco, questo è il buon allenatore. Devono cioè, evitare di disperdere il patrimonio che gli viene messo a disposizione, che poi è quello che sta facendo un po' credo Garcia a Roma, a proposito. Come l'aveva detto Florenzi, come l'ho detto io, preferisco essere fischiato da 70.000 persone, perché almeno abbiamo uno stadio che spinge e la tifoseria è importante, la dobbiamo avere dietro di noi, ma la dobbiamo mettere dietro di noi. E in questo momento, con una gara come questa sera, abbiamo fatto tutto il contrario, che rendere la gente felice, ovviamente, che hanno ragione. Garcia sarà l'allenatore domenica? Sì. Giovedì? Sì. A nome di tutti noi, della squadra, della società e del presidente, augurarvi un felice Natale e ancora di più un felicissimo anno nuovo, sperando anche per merito nostro, visto che, come è stato già detto, forse siamo stati brevissimi nel regalarvi delle felicità fino adesso, ma vi assicuro che le prospettive della Roma non sono state mai migliori di come lo sono in questo momento. Oh, nell'ordine Garcia e poi Sabatini e poi Baldissoni ieri alla festa con contestazione, festa di Natale della Roma, Roma che è in ritiro 2 giorni e mezzo dopo la figuraccia contro lo Spezia, Roma che lunedì potrebbe avere un allenatore diverso. Gianni da Ferrara, Gianni. Buonasera a tutti. Io vorrei fare 3 considerazioni. Sì. Una sulla storia del triplete di Mourinho. Forse non tutti ricordano che Mourinho si qualificò ai gironi diretti con 8 punti, sì, andando a Kiev e facendosi regalare un rigore non dato contro. Se lei interpella Ancelotti, si ricorda ancora che l'arbitro paesano portoghese di Mourinho non gli diede a 5 minuti dalla fine un rigore, sì, sacrosanto, con espulsione di sangue. Non a Kiev, non a Kiev. L'Inter nell'anno del triplete ha 2 episodi indiscutibilmente favorevoli, uno con il Chelsea e uno con il Barcellona, ottavi e semifinali, se non ricordo male. Prego Gianni, però la Champions è fatta così, ragazzi. Il grande Barcellona di Guardiola nasce da una rete contro il Chelsea a tempo praticamente scaduto, in una partita in cui gli errori a favore del Barcellona sono clamorosi. Gianni, prego. Sì, certamente l'esaltazione comunque di Mourinho non mi va, perché io in panchina per la mia squadra voglio un signore, non voglio un elemento del genere che fa le manette agli arbitri così. E in più Mancini si sta facendo un gran campionato, ma vi ricordate la partenza? Che squadre ha incontrato? Tolto il Milan disastrato alla 3ª giornata, sì, ha incontrato le prime 5 giornate sono, ecco, obiettivamente semplici. Con il Carpi ha vinto una partita che doveva pareggiarlo al massimo, perché un rigore non dato al Carpi, un rigore dato all'Inter, sì, giustamente, no? Ecco. Sì. Il Mourinho, che quando entrava dentro in campo andava dentro con una punta e mezzo, andava sotto e faceva il disastro, metteva dentro 3-4 punte e dopo vinceva perché aveva dei forti giocatori. Per cui è inutile adesso andare a esaltare delle persone tu non sei tifoso dell'Inter, Gianni, eh? Io lo dico subito, io sono milanista, sì, e al Milan in panchina ho sempre gradito degli allenatori signori. Quindi se arrivasse Mourinho, costringesse Berlusconi a fare un'ottima campagna acquisti, investire e riportasse il Milan a vincere, a te non piacerebbe? No, fare il tipo per il Frosinone. Guarda, per il Frosinone. Mourinho proprio non mi va. E il Mancini che sta facendo sfacelli, appunto. Ma cosa sta facendo? Non è un gioco, non è niente. E quel signore che mi precedette, sì, prima, che ha detto che... Gianni, però siamo in chiusura. Chiudi perché dobbiamo salutare. Due secondi. Non ha fatto fallire l'Inter, ma è andato in disgrazia con la Saras. Se vi ricordate, la Saras... Sì, va bene, adesso non facciamo macroeconomia. Carità, ci sono mille cose. C'è anche chi scrive che i problemi del Milan sono che Mediaset, Fininvest non guadagnano più come qualche anno fa. Non lo so, chiameremo Belinazzo. Abbiamo finito qui. Io ringrazio ancora Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento è domenica alle 17, alla fine delle partite di un pomeriggio particolare, quindi vi aspetto tutti. Mi scuso con Francesco da Ravenna, che richiameremo domenica. Grazie, ciao. Arrivederci ragazzi, ciao.